you could have mine. But you don't appreciate what I do for you, no. We'll be right back. go back. Thank you. Venga, Jenny Power, que seguimos con Pepe Billy de Scorpia. Ahora mano a mano los tres, Pepe Billy, Naz, un servidor, Borja. Seguimos, sonido Jenny Power. Thank you. sentilo, va bene così. Scatena il fuoco dentro di te, scatenati! Il calore della musica! Va bene così! Andiamo! La musica! Forza! Su, via! Va bene così! Dance with the bump, get loose. I hit the floor directly to the roof. Cool, kick the nation with the groove. Then we rock the place when the